Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1866, una pace ingloriosa. L'importante per noi è ormai di far la pace, di farla subito, di farla in condizioni le meno gravi che si possano. Le parole che avete sentito di Costantino Nigra, ambasciatore italiano in Francia, nostro principale alleato, fanno parte di una lettera al presidente del Consiglio Ricasoli che il Gazzettino del Risorgimento è riuscito ad ottenere. E sono il segnale che la guerra con l'Austria è di fatto finita, non ci sono alternative, anche se l'accordo che si prospetta è umiliante. Il Trentino resta austriaco, l'Italia ottiene il Veneto, ma lo riceverà formalmente dalla Francia, a cui verrà consegnato dagli austriaci. In realtà sul campo le cose non sono andate malissimo, se si considera che il grosso dell'esercito, guidato da Cialdini, si è fatto strada di vittoria in vittoria da Ferrara ad Udine, mentre il corpo dei volontari italiani di Giuseppe Garibaldi è riuscito ad arrivare a 40 km da Trento, a Riva del Garda. Là il generale ha ricevuto l'ordine di ritirarsi e ha risposto secco, tanto secco da far immaginare un velo di amarezza. Un telegramma con scritto «Ho ricevuto il dispaccio numero 1073, obbedisco». Un'amarezza espressa ancora una volta dalle parole dell'ambasciatore a Parigi. Ora non giova il recriminare. Conviene raccogliersi, esaminare la causa vera della nostra debolezza e mettervi riparo. Il lavoro deve essere lungo, perseverante, doloroso, ma efficace. Bisognerà anche che si giudichino in modo spassionato i nostri rapporti con la Francia, la quale è non meno irritata contro l'Italia di quanto lo siamo noi contro la Francia. L'imperatore stesso, benché riconosca di aver errato nell'accettare la mediazione, non è meno amareggiato né meno afflitto. E l'esito poco favorevole della sua mediazione e l'amarezza che n'ebbe non furono poca cagione della sua malferma salute. Possiamo rivelare che il presidente Ricasoli, nella tempesta delle polemiche per il disonore che colpisce il paese, ha pensato a dimettersi, ma ha capito che il regno non avrebbe comunque alternative. In questa decisione probabilmente hanno giocato ancora una volta le parole di Nigra, che, lo ricordiamo, non è un diplomatico qualsiasi, ma è stato segretario dei presidenti del Consiglio D'Azeglio e Cavour e fu da quest'ultimo mandato a Parigi nel 58 per mettere nero su bianco gli accordi di Plombières, prodromi dell'unificazione. Non sono nemmeno tranquillo per le condizioni interne del nostro paese, che si sente umiliato ed è profondamente irritato. Scongiuro voi e i vostri colleghi a non disertare il posto, per tribolato che sia. C'è un coraggio superiore a quello del capitano in campo, e sia il tenere il posto che avete in tanta iattura morale. Così Ricasoli si è deciso e ha inviato a Vienna il generale Menabrea, che firmerà il trattato di pace con l'Austria. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.